sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei qui.